essere, non sei niente, solo chiacchiere distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. E 59 minuti sull'orologio di Radio Onda Rossa. Che, come dicevamo un po' di tempo fa, assomiglia l'elimina code, come si chiama quel display, quello schermo che serve per prendere il numeretto nei grandi magazzini oppure nelle sale di aspetto. Ventitré zero zero, un minuto, quindi 87.9 della banda Roma nel Laziale. Questa è Radio Onda Rossa. In presenza, come si dice, in presenza di chi? In presenza di voi tutti e tutte che siete all'ascolto. Per cui il piacere di rimettere mano a mixer e CDJ. Qualche volta anche sul computer. Ci dà quel di più, dai. La radio è la radio, le mura della radio sono piene di anni, di decenni, di un'umanità varia che ha lasciato di tutto qua dentro. E altro che mascherina, servirebbe per non rimanere contaminati da quanto questo luogo può dire e trasmette. E perciò quando si trasmette da questo luogo, la differenza si sente. Voi questa differenza la sentite sugli 87.9, dicevamo prima, della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, oppure magari ascoltando in streaming dal sito della radio www.ondarossa.info. Tutte cose che potete fare, perché fino ad ora avete contribuito in tutte le forme, non ultima quella economica, affinché questa radio continuasse a fare il suo lavoro, che il lavoro non è, perché lavoro è una parola carica. Per fare quello che gli piace fare, che è necessario fare. Dovete continuare però a sostenere la radio, lo potete fare in questo momento continuando a sostenerci anche attraverso il crowdfunding, quindi lo trovate facilmente dalla pagina della radio www.ondarossa.info. dicevamo, in alto c'è il banner, si clicca dentro e c'è la campagna 30 per 1000. 30 euro per 1000 di voi vuol dire un anno di Onda Rossa, di voi e di noi ovviamente. Allora, dicevamo prima, poc'anzi, colloquiando con Elettrodo in diretta questa sera, altri 20 minuti di Trip Virus, nuovo di zecca. A sandwich a panino dentro la solita collezione, che questa sera, collezione di tracce, sarà tutta nera. Dal motivo per cui lo siamo attratti da questo modo di fare musica, cultura, di comunicare, quello dei neri, del black people. E iniziamo perciò così. Con uno degli artefici del rock and roll. Slips away. Per chi volesse banalizzare, è scomparso poco più di un anno fa, 90 anni, Chuck Berry. Per chi non avesse avuto la occasione di vederlo, magari in qualche documentario o in qualche documento d'epoca, e non guardate di epoca antichissima, ha fatto degli show piuttosto pieni e carichi fino alla metà, ai primi anni 70, ancora in formissima. Ecco, i suoi show non erano semplicemente appunto dei concerti in cui suonava i grandi classici della produzione degli anni 50, primi 60, erano appunto proprio dei veri e propri show, dei teatro canzone, insomma, in cui lui si prendeva delle lunghe pause di parlato in cui raccontava vicende e storie. Pure lui, come molti della comunità nera, ebbe a che fare con il carcere. È quasi impossibile per un nero non avere un incontro con i penitenziari. Well, the place was packed when the police knocked. Negli Stati Uniti. But they kept on rocking. Torniamo agli anni 30. Yeah, Robert Johnson, forse uno fra colui da cui poi cominciò tutta questa faccenda del blues, del rock and roll e via dicendo. Quando i neri suonavano per i bianchi il jazz, cominciarono a fare invece quest'altra roba, il blues, che era una roba solo per neri. I'm a steady rolling man. Robert Johnson, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Night and day, I'm a steady rolling man. Mm-hmm. I roll both night and day. But I haven't got no sweet woman, but to be rolling this away. I'm the man that rode when I shingle was hanging on the tree. And now you hear me howling, baby, down on my bended knee. I'm a hard working man, have been for many years, I know. Lontano 1936, anno di registrazione per Robert Leroy Johnson, scomparso due anni più tardi, giovanissimo, a 27 anni. Forse il primo dei club dei 27, dei dannati, scomparsi in giovanissime età, proprio al culmine della loro capacità espressiva. Forse proprio quando la loro capacità espressiva, proprio perché al culmine, cominciava a portarli alla depressione. Ma insomma, non al di là dell'età e della gabbala, insomma, sono tutte storie molto diverse una dall'altra, se non quella di essere dannati.

The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. E sentite questi suoni. Soul di Gil Scott-Heron. E adesso invece passiamo a delle basi che fanno dei bianchi. Are you watching your children playing after school? The things that they'll soon have to take care of. Patrick Carney, Then We're Back, quindi fra i bianchi più influenzati nell'ultimo periodo dalla vibrazione nera, forse fra coloro che più difficile confondere se non se li si riconosce come dei bianchi. E per questo motivo hanno collaborato alla produzione delle basi di un lavoro di un po' di anni fa, Black Rock, un lavoro molto interessante che abbiamo mandato e rimandato da questo spazio. Si avvaleva di vari cantanti e rapper, cioè Billy Taz, Jim Jones, Ludacris, Mos Def, Nicole Ray, Noe, ODB, Faro e Monch, Q-Tip, Riek, One e RZA. E proprio quest'ultima, RZ, insieme a Faro e Monch, suonano insieme appunto a Black Keys, Dollars e Sense, Black Rock, quindi Radio Onda Rossa. Yeah, yeah, zig, zag, zig, zig, zig, zag, zig, is very scary. This is a Bob, you're not the ordinary. You won't hear that, don't you? Yeah. Hey yo, let's turn the beat up a little bit. This number, tell him what I was trying to tell him. You got me? Old man Joe. Like Tony Stark said, we throw your ass in the Cobra clutch. Your man watch as your whole head opens up. Sober up, Niggy. It's the Bob Dizzy. We throw darts in the air that flow like a frisbee. My neck is frostbitten, glass filled with crispy. Love my whiz, but y'all does, nigga, miss me. I'm bionic, my chronic drowned in Dizzy juice. My fist fast as Bruce, you better call a truce. No excuse, the black man must stand up. Time to make the Wu-Sang, throw both of y'all hands up. You see me in the Maserati Gran Turismo. Up in the club, my beat got more sub than Quizno. Mama, that's the business, I'ma get this. Keep it 10 digits, fuck that before I quit this. Walk in the fist of a prince. If it don't make a dollar, nigga, then it don't make sense. If it don't make dollar, then it don't make sense. If it don't make dollar, then it don't make sense. No, no. Yeah, it don't make sense. Yeah. Shake it out, get out. Got a bunch in your area. I see dead people when I spit with my six cents. My 16 to six sentences that make sense, which means that inflict pain, that sentence. I got brains backstage, I've been rhyming six cents. Pocket full of ride, the Diffros, pounds, your bros till I die. Tours, French, French, Dutch mark to the sky. My shades is black, my boots is fried. Rock and roll, I lose control. Fuck the white ones, the black keys got so much soul. While you come off of the bench, if it don't make dollars, then it don't make sense. Don't make dollars, then it don't make sense. Don't make dollars, then it don't make sense, dog. It needs to make sense. If it don't make dollars, then it don't make sense. If it don't make dollars, then it don't make sense. Face for your face, highs for your eyes, don't blink. Black ink is a rhyme, all rise. Rude boys, keep that thing at your side. Be all right, motherfuckers, Philly, we up in here. We all live, I'm puffin' this Cohiba. Mommy cool in her heels, all she ever seem to do is play it cool for real. She be pushing pop, vessel in his shoes is ill, but her hand keeps slipping on the wood grain wheel. But it's cool, we never slipping when it's moves to make, especially when what we talking ain't your usual cake. I pump bass for y'all bathing apes to get charged. Nah, I'm not a dealer, I'm a poet at large. We in the wind with the roof back, letting the breeze hit us. The bathroom warm with sweatpants and slippers, coming to pay a visit to whoever on the hit list. Some of y'all been trying for years, you never get this, fool. Check it out. Stay cool, baby. Stay cool, huh? Come on, check. Stay cool, motherfuckers, y'all know the rules. Stay cool, cool, cool. Stay cool, daddy. I got a few on the side, the game sticks, yo, I'm doing my job. Go up against enormous odds, wouldn't break a sweat. Money make a bet, funny son, you a threat. Well, I ain't shaking yet, 24-7 chilling. Tougher than penicillin from the block where the crooked cops killing like a villain. Children in the hood getting rocked by their brothers and brothers. Cross the board getting knocked by the millions distressed. Got me igniting the potent marijuana leaf, trying to play it cooler than the polar bear colony. You feel the music, know I'm over there probably pimping on the same system that forever short of me. I got the soul of a young Sam Cooke when I spit. It make you wanna make a new dance up. It's all to the good, shorty, go and do that stuff. It's not another sound system, rocking steady as up, and it's cool. Stay cool. Yeah. Stay cool, huh? Check it out. It's stay just cool, motherfuckers, y'all know the rules. Stay cool. In my vehicle to chase, harass me. They never ride past me, they really coming at me, right? They wanna know where the drugs, guns, and cash be. Probably wanna get me to run so they can blast me. Just blast me in your box, play my shit. I know it's crowded at the top, cause I'm on the tip, and that's as high up at the top as a brother could get. And how I do it make a lot of motherfuckers upset, but it's fine. Re-drizzle and I'm back for mine, in case y'all getting tired of the same old shine. And I'm calm, calculated, and perfectly aligned. The way I'm operating, what is it, surgery? It's not a thing when I lower the gradient lens frames. I'm cooler than Clyde Stubblefield, drummer for James. Hip hop is out of Hustleville, coming for chain. I exercise till a muscle build, breaking the chains, and I'm cool. Stay cool, stay cool, stay cool, motherfuckers, y'all know. Stay cool, stay cool, yeah. 23:29, stay cool, The Roots. E noi sì, stiamo abbastanza cool perché solo perché c'è un ventilatore davanti a noi che fa circolare un po' dell'aria di questa estate tardiva, ma che infine non è mancata di arrivare, e perciò un po' di sudore ci sta bene con questi suoni. Black master of any trade under the sun. Talk sharp like a razor blade under the tongue. Clear my path and come get your captain hung. Trying to breathe like black a collapse. Lasciamo The Roots e andiamo a un'altra etichetta di queste qui, primi anni 2000, fine anni 90. My nigga, word of mouth, little rule of thumb. Y'all better bow down when a ruler come. Guerrilla Union. A proposito del fatto che quello che accade in questi giorni di là dall'oceano, ma anche altrove, non è un fulmine a ciel sereno, una resistenza lunga dai campi di cotone, dai tempi della diaspora fino ad oggi. On the draw like Black McGraw, and I can't tell what y'all cats rap before. My name BG's and I'm back for more. See me get more chips than a corner store with a portrait of Malcolm X. Loro sono Supernatural. Il disco si chiamava Spit, Spiritual Poetry, English Stout. Have y'all flicks on the evening news. Play y'all part, get on y'all P's and Q's. And when y'all think thought, be prepared to lose. Bring money to spend and somebody to lend. And some worthwhile money, not 20s and 10s. Guessu back. Questo Sbeck, per la nona traccia per questo lavoro di Supernatural. Ci siamo, I'm calm, collect, sharp like my name Gillette. R.I.P. my main Gillette. Until I touch the mic, y'all people ain't seen danger yet. I'm a decorated flip. Thank you. What the fuck am I doing in here? Some people in here right now thinking, who in the hell is that on the stage? Guess who's back? Guess who's back? Supernatural, the best freestyle in the world. Who are you? Supernatural, natural. That's right. Guess who's back? Who is it? Supernatural. Here he comes back on stage. Guess who's back? Somebody better clear the lane. We about to do this shit. His son like the Wrath of Cain. Supernat, I'm taking over your circumference. I'm the wrong MC to fuck with. The big bully of the beats is back on the playground. Give me the mic, cause I got something to say now. Half of these MCs is out of their league. Thinking they soldiers just cause they wearing fatigues. Half of their style is really only based on greed. But they really never speak what the black man need. You paid to get your record played, I just paid dues. We going all out. Now I got nothing to lose. You caught me, man, in one of my terrible moves. And when I feel like this, I'm a terrible dude. This is your deliverance from ignorance. Somebody raise their hands right now if they're hearing this. It's therapeutic. When the beat get executed, the game is watered down. It's totally diluted. So it's time for the return of the undisputed. I got stock in this game and I'm so deep-rooted. Supernatural, the best freestyler in the world. I don't believe it. It's your fault. Yep, y'all know the name. I got the power, I'm Supernatural. And if you don't believe me, Supernatural. But check your bruh, know what I mean. Guess who's back? Now check me out, y'all. Back of rap is back with a brand new sound to burn the whole damn game to the ground. One of the most hated, verbally underrated. Some cats don't like me, they say my ego inflated. But when I'm not around, they do their best to imitate it. Took a break from the game cause the game was jaded. Now I've returned to my post. I bet most of y'all thought that Supernatural was ghost. Guess who's back? No, I'ma do this till the day that I die. You can't get rid of me, son, so don't even try. I know you tired of that old repetitive bullshit. I'm reloaded now and back with a full clip. You wanna battle, but you're really not ready. And if you was ready, you'd really have to put up some cheddar. I've been doing this since the days of Crazy Legs and Rocksteady. I'm that old rap real shit. Guess who's back? Super Mac, ain't nobody touching him. Y'all know the name. So thank the man from up above and them cats from up above for showing me love. For every fan that showed me respect in the club and all you really cats that's popping your bub, I'ma get it popping too, yeah, popping a slug. When my CD hit the streets, it's a popular drug. I see you clowns on TV, you're just popular scrubs. I told you when we get on, we all gon' eat. Half of these cats is whack and I ain't losing no sleep. I'm back with a vengeance, so prepare for the smackdown. Now I'm moving up, no more playing the background. The MC assassin, four ball killer, is back with the strength of a group of gorillas. My pop said if you gon' do it, then do it the best. Don't worry, Pop Duke, I'm gon' do it to death. So make room for your boy Dr. Doom and watch me run laps round your whole platoon. Super Nat, ain't nobody touching him. Guess who's back? Supernatural, the best freestyler in the world. Supernatural, natural, natural. Guess who's back? Supernatural, natural. Y'all know the name. Guess who's back? Supernatural, ain't nobody touching. And if you don't believe me, ask your father. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Natural. 23:36 minuti primi è il momento. Situation with that balance shit. You gotta really pay attention and examine the situation before you go into that shit going, yeah, I'ma bust his ass, cause it ain't gonna be that simple. Everyone's trying to get to the top of the hill, and then it's the same fight in the sandbox. You get to the top of the hill. È il momento del Trip Virus. Yeah. Black Trip Virus questa notte. E ovviamente andiamo, abbiamo preso degli stralci di Robert Johnson. E poi di Black Hat, un gruppo, un super gruppo funky soul degli inizi anni 70. E poi c'è ovviamente, ma non messo da noi, Public Enemy, Fight the Power. 20 minuti e 7 secondi, quindi ci risentiamo fra un po'. Didn't bust my gun. Black Trip Virus at 25 o'clock, Onda Rossa. Don't stop till you get you some. It's nice to be loved and have a lot of respect, but I gotta pay rent, so the money's next. Come on, what's his name? Help me, Milka. Help me, Milka. Help me, Milka. As the whites have done it to us. We aren't a violent group. We are taught by the Honorable Elijah Muhammad to obey the law, to respect everyone who respects us. We're taught to display courtesy, to be polite. But we're also taught that at any time, anyone, in any way, inflicts or seeks to inflict violence upon us, we are within our religious rights to retaliate in self-defense to the maximum degree of our ability. We never initiate any violence upon anyone. But if anyone attacks us, we reserve the right to defend ourselves. So to accuse us of being violence is like accusing a man who is being lynched, who is being hung on a tree, simply because he struggles vigorously against his lyncher. The victim is accused of violence, but the lyncher is never accused of violence. And I only point this out because the various racist groups that are set up in this country by whites and who have actually practiced violence against blacks for 400 years are never associated or identified or made synonymous with the term violence. But whites speak of Muslims almost synonymously with violence. Whenever Muslims are mentioned by them, violence is brought up. But it's not connected with any other group. This is a sort of a propaganda tactic, or what I would call psychological warfare, to in some way make... L'uomo bianco, il fatto di chiedere a un nero perché lo odi, è come il lupo che chiede all'agnello, oppure lo stupratore che chiede alla sua vittima mi odi. L'uomo bianco non si trova nella posizione morale di accusare il nero di alcun... Beh, è un nero che le pone la domanda. Come chiamereste un nero istruito, laureato in lettere o in scienze o con un dottorato in filosofia? Ve lo dico io, lo chiamereste negro, perché comunque i bianchi li chiamano negri. Ma vediamo di analizzare questo modo di pensare. Se vogliamo capire l'atteggiamento dei bianchi, si deve tenere presente che in origine c'erano due tipi di schiavi: il negro da cortile e il negro da fatica. Ebbene, il negro da cortile viveva in casa, accanto al suo padrone, nella casa padronale, giù nel seminterrato o in soffitta. Era ben vestito e mangiava a sufficienza, i resti del padrone, ovvio. Egli adorava il suo padrone. Direi che amava il suo padrone più di quanto questi amasse se stesso. Se il padrone diceva abbiamo una bella casa, lui diceva zii padrone, noi abbiamo una bella casa. Se la casa del padrone andava a fuoco, era il negro da cortile il primo ad accorrere per spegnere l'incendio. E se il padrone stava male, diceva cosa c'è padrone, stiamo male? Stiamo male, era questa la mentalità del negro da cortile. E se un altro schiavo andava da lui a dirgli dai scappiamo, andiamo, ce ne fuggiamo via da questo padrone crudele, lui diceva perché?

ti racconto la storia della destra e della sinistra. È una favola sul bene e sul male. Odio. È con questa mano che Caino ha affrettato suo fratello. Amore. Queste cinque dita vanno dritte al cuore di un uomo. La mano destra, la mano dell'amore. La storia della vita è come un incontro in box. Una delle due lotta continuamente contro l'altra. E la mano sinistra picchia molto duro. Capisci? Dopo un po' sembra che la destra, amore, sia le corde. Ma fermi tutti, che sta succedendo? Ecco la destra, ecco che si riprende. Sì, adesso è lei a mettere la sinistra alle corde. Proprio così, sì. Giù, diretto micidiale, odio barcolla e cade. Giù, giù. E alla fine odio è messa a KO dall'amore. Se ti amo, ti amo. Ma se ti odio. Sì, ho capito, amore e odio. Ti amo, fratello. Anch'io. Radio Rave, ci vediamo dopo. Pace. Con la violenza o la disobbedienza civile. Con la violenza o la disobbedienza civile. Con la violenza o la disobbedienza civile. Con la violenza o la disobbedienza civile. Con la violenza o la disobbedienza civile. Con la violenza o la disobbedienza civile. Con la violenza o la disobbedienza civile. Con la violenza o la disobbedienza civile. Con la violenza. Pregate il cielo che scelga la seconda. Oh my- Caciara, avremmo avuto grande piacere, ma purtroppo anche per motivi anagrafici sarebbe stato impossibile partecipare ai concerti in cui sono tratte queste registrazioni live. Primi anni 60, Fela Rasmun Puti. L'Aisse dal vivo. Quattro minuti dopo la mezzanotte, per cui proseguiamo. Durante l'estate del 68 una sommossa nella città. Le sale d'attesa erano piene di crepe incrinate. Eppure attraverso tutta la violenza, confusione, rabbia e odio è successa la nascita di un bambino, di un figlio della mescolanza di razza. Abominio in una nazione di separazione, in altre parole, noto come un prodotto di integrazione, che anche visto attraverso gli occhi di un razzista. Un'altra nascita di cui non hanno bisogno in America i mezzosangue. Gli ariani odiano le persuasioni del mulatto. Un altro bambino nero significa uno meno caucasico. E gli anglos, gli inglesi nel clan, si stanno incazzando. Dicono che è una minaccia per la purezza bianca e sicuramente nazionale per gli Stati Uniti. Questa è la paura di ciò che è di cui ha paura chi ha la pelle dominante. Sta succedendo ancora, ancora, ancora. Non possono impedirlo, fermarlo, finché non arriverà il momento che il mondo vedrà che siamo uno, che siamo uno. Una famiglia umana a sua volta vedrai rispetto per ogni colore, tonalità, credo, lingua e dialetto. Chiamalo realtà, profezia o fantasia. O spero che tutti possano vivere in unità. Race Mixer. Non c'è niente di più odiato da un razzista che il mescolare delle razze. Quindi qual è la base per i casi? È successo in così tanti posti, sono state sprecate vite innocenti, è ucciso, assassinato, violentato, castrato, ucciso. Invero che vergogna per una società folle. È malato pensare alla condanna a morte con una corda al collo. Potrebbe essere causato dal sesso interrazziale. Qual è il prossimo? E questa è Race Mixer. Loro erano un gruppo hip hop di cui dopo questo lavoro non si hanno avute più notizie. Stiamo parlando di Chris Kills, nero, e c'è bianco. Questo è Power Race Mixer a Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Well, when he told me about this white girl he had, he says, my friend, that's what this war is about down here now. He says, that's what we got to fight to protect. And he says, I just looked at him and I said, boy, you ain't gonna never see the sun come up again. The summer was 68 and a riot in Chi-Town. Waiting rooms packed, cracked, schools were all around. You Yet through all the violence, confusion, anger and hate was the birth of a child from the mixing of race. Abomination in the nation, the separation, in other words, known as the product of integration, which is also seen through the eyes of a racist. Another birth they don't need. In America, half-breeds, the Aryans are hating the mulatto persuasion. Another black child means one less Caucasian. And the Anglos in the Klan are getting pissed. They say it threatens white purity and U.S. national security. That's the fear from what is dominant skin. And it's happening again and again and again. They can't prevent it or stop it. And soon the time will come that the world is gonna see that we are one, that we are one. One human family, in turn you'll see respect for every color, shade, creed, language, and dialect. Call it reality, prophecy, or a fantasy, or hope that we can all live in unity. Race mixer. They want to throw white children and colored children into the melting pot of integration, out of which will come a conglomerated, mulatto, mongrel class of people. All races will be destroyed in such a move. There's nothing hated more by a racist than the mixing of the races. So what's the basis for the cases that happen in so many places where innocent lives got wasted and killed, murdered, raped, castrated, and slain in vain? What a shame from a society insane. It's sick to think the sentence to death with a rope on the neck could be caused by interracial sex. What's next? Another body hanging from a tree, from another white girl's father screaming R-A-P-E. Even though his daughter had a mind of her own and chose to get with a man whose skin you hate, you can't take away the time they spent, so start accepting the fact that she's pregnant with a baby that's black. Now she's rejected and cast away because the family couldn't visualize a grandbaby with brown eyes, with no blonde hair or blue eyes. Even though you disagree, we're all related in the human family. This is reality and a plea for unity, so one day we can live on earth peacefully. Race mixer. Or if a black man looked too closely at a white woman, the system could be enforced by violence. Groups like the Ku Klux Klan use terrorism to uphold white supremacy, and were an ever-present symbol of intimidation. Desegregation is against the Bible. I find my scripture for this in Genesis 9:27, where God did segregate and separate the three sons of Noah, sending one out to be a servant while the other two remained in the tabernacle. I say that God has given no word in the Bible any right for men to end the curse that he's placed upon any human flesh. Now are you ready for the third verse? Taking a few lyrics, I hope will reach the masses that the fascists in the government try to keep asleep and divided, so they conquer and further remain in control, so they'll never see a revolt that we all know will take place. The world don't have much space, especially to keep the earth divided by race. And by no means am I saying to accept the situations just the way they are, on a collision with the race war. Don't think it's not reality, living in denial from a bourgeois family, acting like society so fair and everybody has equality regardless of their origin or nationality. See, that's the type of racist that's asleep in a cemetery, getting in the way of future true revolutionaries that know a reality from a lie or a fantasy. And worse, we can all live in unity. Race mixer. Do it at your own risk. Do it at your own risk. This land is composed of two different cultures, a white culture and a colored culture. But I'm told now that we mistreated them and that we must change, and these changes are coming faster than I expected. Dan Adams al basso, Greg Davis alle percussioni, alla batteria, Eugene Robinson alla voce e ai testi, e Nico Werner alla chitarra, alle tastiere e alla produzione. Loro erano Oxbow, questa era la formazione di Narcotic Story, un altro esempio di race mixer in cui la fa da padrone l'enorme nero di Eugene Robinson e la sua voce drammatica che si insinua fra le note post rock, post core di Oxbow. Un altro race mixer, Death Grip, è noto parecchi da queste parti per i parecchi passaggi che gli dedichiamo. Formazione sorprendente. In cui Stephen Barnett folleggia sul palco. E quindi dopo Oxbow, Death Grip. BB Poisson. It glitters all the time. Oh, eccoli. Bye.

Vamos a vayalo ngi titulo molo. Poni mala grande ngono kuma ganya ngono boboro kuma ganya na. Poni mala grande ngono kuma ganya na, poni boboro kuma ganya na. Poni boboro ba ga poni ma ko ngono boboro ngi titulo molo, ni be ngono bo mo moy kam moy wulo ma. Denga ni mi wulo ligala ni msa wulo bay bulo, ngi manan ngono bo wi ka ha je be ni msa. Ide parabana sutro wule msa fa jalo wale. Aba dile ko doki. Mam sa vajalo ngi ki tolo malo. Imana ne son jamu la mi son tola kama tro chiba koro chiba koro be do bi gomuro. Adru kame kwa gundele anyo vladu kolo la kama suma da guru nyangi. Sa vajalo fa sa flamuro. To fight. If you go to Lagos, motherfuckers. Tanks and armored trucks, bitches. Don't get it fucked up. Don't even look at me diagonally. You better look at me straight up and down, 6 o'clock, bitch. Check it out now. And first and foremost, I'm only here to knock shit down and push your shit back and completely lock shit down and make sure niggas know how to act the way we play shit. Imagine if we really had the resort to the gas. We treat niggas like audiences. Just clap them down. Well, fuck what happened before. This is what's happening now. For you niggas who hate, well, you can't stand for this. Break both of your legs. Now you can't really stand for shit. You motherfuckers thought the game was the same. Nowadays, niggas in the hood got gas to shoot down a plane. We bloody niggas so quick and so fast. Instead of giving niggas the get, I prefer to put a foot in their ass. And I got something for them dudes who be trying to be too hard. A street sweeper, I ain't talking about kind of making move your car. I'm a bad dude. Oh yeah, I'm really talking about bad. I'm a big old problem. And he ain't really talking about mad. So all my thugs in the street, get down with us. Come on. My real life soldiers, get down with us. Come on. My street corner colonels, get down with us. Come on. My dogs who hold their post down, it's down with us. Now all my people in the east, yeah, it's down with us. Come on. My hustlers in the west, it's down with us. Come on. My dirty south gangster, yeah, it's down with us. Come on. Forever keeping the gully, you know it's a must. I'm number one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one. I'm number one. I'm the one. Supposed to win it. No type of shit on a lot of shit, but look, they mostly 20. Lot of Chris, mostly bottles. Lot of chicks, mostly models. Lot of bullets solid, but most of them hollow. You gotta say nothing, my niggas, for me to dump on. Hear my nuts, cause if this right here, this the jump on. I'm crossbow when I drive, so I tell the roof in the coupon. Me get a jump in the club, make them tear the roof off. So all them thugs in the street, get down with us. Come on, my real life soldiers, get down with us. Come on, my street corner colonels, get down with us. Come on, my dogs who hold their post down, it's down with us. Now all my people in the east, it's down with us. Come on, my hustlers in the west, it's down with us. Come on, my dirty south gangster, yeah, it's down with us. Come on, and forever keeping the gully, you know it's a must. I'm number one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one. A bottle of Chris can end up becoming the first weapon inside a club. The way we beat you with it, and the way we come with such brute force. That's how we party, and that's how me and my whole crew floss. The new boss of this whole shit. Before you move me, probably there's a million dudes you have to go get. Something bust of us, we making them run. Undisputed on every level, I say it with conviction. I'm still number one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, with us. Come on, my real life soldiers, get down with us. Come on, my street corner colonels, get down with us. Come on, my dogs who hold their post down, it's down with us. Now all my people in the east, yeah, it's down with us. Come on, my hustlers in the west, it's down with us. Come on, my dirty south gangster, yeah, it's down with us. Come on, forever keeping the gully, you know it's a must. I'm number one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one. Li avete sentiti presentarsi proprio alla fine? Ghetto Busta Rhymes, Silk the Shocker and the Pistols. Questo è The One. E prima di The One abbiamo ascoltato le invettive e l'invito alla riflessione che faceva Femi Cuti, figlio di Fela Rasmone. Che si chiedeva chi se voi andate a Kinshasa, capitale del Congo, 11 milioni di abitanti, cosa trovate? Vampiri. Se voi andate a Darfur, cosa trovate? Vampiri. Then the mics that I got on, I used to love apartments. Snapping in at least a mini mansion. I feel like I'm in a club compartment. I'm far from jealous, but you ain't smoking. E prima ancora, lungo le rive nel Niger, in Mali, Barudrame, Diagatula, nella loro irresistibile danza tribale. From the rocks to the trees, we be like this. From the blocks to the peas, we be like this. From the cops to the squeeze, we be like this. Detto questo, noi ce ne andiamo. Keep it like this. From the rocks to the trees, we be like this. 39 minuti dopo la mezzanotte, from the cops to the squeeze. Le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa finiscono qua. Hey yo, never get caught holding a gram. Never take a bitch word over your man. Stay close to him. Never let him know where you live. Never let him get familiar with your dough or your kids. Put the toast to him. Always stay quiet and humble. Vi ricordiamo le manifestazioni del fine settimana. Riprenderemo quelle piazze. Ricordate. Con tutte le precauzioni del caso, ma le piazze ce le riprendiamo. Da prima sabato per il, venerdì per il Kurdistan, e invece sabato 27 alle 16 per la Palestina, e invece i lavoratori dello spettacolo. Invitiamo quindi tutti e tutte a riprenderci le piazze. Dicevamo, la programmazione in diretta finisce qui, vi lasciamo in compagnia della compagna automatica suonata, si riprende domattina alle 8 con le prime pagine, la rassegna stampa cittadini, redazione della mattina. Alle 14 poi tutta scena cinema, Attica Blues, oltre a Black Music alle 16, La Schiena del Sole alle 17, Mezzete alle 18, Tabula Rasa alle 20 e Apostasia ai Cuginetti. Chiudere le programmazioni alle 23. Questa è Radio Onda Rossa. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano in condizioni di limitate libertà, condizioni limitate, libertà personale, carcere clandestinità, latitanza, arresti domiciliari. Bella a tutti e a tutte. Migranti e residenti. Anzi, sarebbe meglio dire indigeni. again, tonight we'll win. Let it begin, tonight we'll win. Yeah! Let's all share our dreams, all share our dreams. Let's all share our dreams of the communist move. All share our dreams, let's all share our dreams. All share our dreams of the communist move. The moon up above, show you the love. See us through the night, see us through the night. Dreams, I'll share our dreams under a communist moon.